Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. E niente, quindi possiamo cominciare insomma con la nostra chiacchierata su quello che succede in Grecia in questo momento e ad Atene in particolare. Sì, riprendiamo un po' il filo di discorso, ci riallacciamo anche all'intervento di prima di Torino. Abbiamo parlato di un quartiere in trasformazione, nelle settimane scorse abbiamo fatto altri collegamenti con Barcellona, anche con il quartiere dei Centocelle a Roma, con una serie di quartieri nelle città italiane che si stanno trasformando, e adesso andiamo in un quartiere che per tanti aspetti è un po' mitico, famoso, cioè Exarchia, quindi un quartiere nel centro di Atene che è stato sulle cronache molte volte come appunto un punto caldo, un punto dove insomma sta al centro delle lotte, un punto in cui i compagni si ritrovano e si organizzano, ma è anche un quartiere ovviamente che si sta cambiando, che è sotto attacco da parte del capitale, da parte degli interessi degli speculatori. E qui c'è un compagno che proprio da quel quartiere viene. Lo salutiamo, però cominciamo proprio con chiedergli quali sono le problematiche che riguardano quel quartiere. Sappiamo, insomma, abbiamo letto anche qui in Italia rispetto alla situazione dello spaccio, degli attacchi polizieschi che il quartiere subisce, dei controlli, e quindi lasciamo la parola a lui per raccontarci cosa sta succedendo nel quartiere di Exarchia. Iniziamo dicendo prima di tutto che Exarchia è un quartiere legato, diciamo, con tutta la storia del movimento antagonista e con tutte le rivolte della storia della Grecia contemporanea da decenni. È un quartiere al centro della città, una roccaforte, diciamo, del movimento anarchico, antiautoritario, più in generale del movimento antagonista. Durante gli ultimi anni i tentativi di far cambiare il quartiere sono stati vari e molti. In molti modi si è cercato prima di tutto di diffamare, di cercare di far passare tramite i media l'Exarchia come un quartiere, diciamo, diverso da tutti gli altri quartieri poveri del centro di Atene. Poi ci sono sempre i progetti per la riqualificazione, tra virgolette, del quartiere, tramite tutti i tentativi di far cambiare veramente la popolazione del quartiere, che è un quartiere da sempre abitato da studenti, da gente povera, comunque da luogo di sedi, occupazioni del movimento, eccetera. E durante gli ultimi anni sono tanti, diciamo, i locali aperti, tanti i tentativi di far diventare la zona una zona con affitti alti, eccetera. E come anche sono da anni che questa volta sembra però di cercare a provare a far piazzare in mezzo della piazza di Exarchia una stazione della metropolitana. Con tutto quello che può che significare questo per il cambiamento proprio della zona. Entrando più in dettaglio, per quanto riguarda la lotta che si dà da molti mesi, in varie forme, da gruppi di compagni proprio al quartiere, riguarda soprattutto la lotta contro lo spaccio e il commercio di droghe nella zona. Uno spaccio che si faceva davanti agli occhi di tutti da un'organizzazione in pratica di stampo mafioso, nel senso che dopo gli arresti che si sono stati fatti viene fuori che si trattava proprio di un'organizzazione con una gerarchia, con membri diciamo più alti gradi, gente che comunque accumulava denaro, molto denaro, e questo era che li legava, e questo è il motivo con il quale era completamente coperta per molti anni dalla polizia locale, non solo quella locale, non solo dal commissariato della zona, che sa bene picchiare, buttare i lacrimogeni quando ci sono gli scontri, però sapeva bene chiudere per anni gli occhi a un spaccio proprio davanti agli occhi di tutti. E questa lotta che va avanti oramai quasi da un anno in un modo continuativo, nel senso che quasi ogni settimana ci sono interventi di vario tipo. E si è iniziata dopo un attacco che hanno subito tre compagni dello spazio sociale Vox da alcuni spazzatori della zona. Dopodiché sono state varie forme di mobilitazione, diciamo mobilitazione di vario tipo, di azione diretta e non solo, che individuavano in questa banda di spaccio i loro collaboratori della polizia come nemici della zona, non solo nemici dei compagni e dei gruppi politici che vivono nella zona, ma contro tutta la popolazione della zona. Comunque vale la pena sottolineare che questa lotta non ha avuto solo magari i momenti di attacco e di azione diretta contro il capitale illegale tra virgolette, ma ha avuto pure momenti di interventi come con organizzazione di film, di comunque di note di giornate di auto-organizzazione sociale, di solidarietà di classe nella piazza di Exarchia, iniziative che hanno avuto la partecipazione di moltissime persone, non solo compagni e compagne, ma pure abitanti della zona che vedevano veramente con i loro occhi che gli anarchici, gli anti-autoritari, i comunisti non sono quello che viene raccontato dai telegiornali del regime, ma comunque almeno i gruppi che animano questa lotta si interessano veramente per quello che succede in una zona che condividono con tutta l'altra popolazione che vive pure tutte queste problematiche che stiamo raccontando. Quindi, se ho capito bene, le reazioni anche dure che ci sono state da parte dei compagni, insomma, qualcuno poi avrà visto sui fatti di cronaca, insomma, accaduti, da parte della popolazione non c'è stata paura rispetto a quello che è successo, ma si è riusciti a fare un lavoro che coinvolgesse anche le persone del quartiere in qualche maniera. Questo è importante. Questo che dobbiamo dire è che la popolazione della zona, pure gente che abita nella zona da decenni, pure di una certa età, da quello che magari si erano impauriti era dalla violenza gratuita di tutti questi personaggi loschi che facevano i soldi nella zona, usando pure la violenza per far guadagnare loro stessi e i loro padroni. La violenza, la controviolenza che hanno avuto questi personaggi nella loro strada erano le semplici conseguenze delle loro scelte antisociali, scelte antiproletarie che coltivano la guerra fra poveri. Quindi vedendo pure la partecipazione degli abitanti della zona nelle iniziative pubbliche che sono state organizzate durante questi mesi, può dire qualcuno che comunque le forme di lotta, pure di un alzamento del livello della violenza usata in questa lotta, non ha fatto impaurire, diciamo, gli abitanti, ma li ha magari fatti venire più vicino e sentire più vicini e solidali pure con chi rischia la sua libertà e la sua incolumità fisica per lottare contro forze comunque che sono antisociali e cercano di far diventare un quartiere, diciamo, con una storia come Exarchia, in un quartiere come qualunque altra zona commerciale dove regna chi è più ricco e chi più è forte, che è più forte. Ecco, insomma, il discorso è molto interessante, lo proseguiremo nel corso appunto di tutta questa trasmissione, a dimostrazione un pochino, ma adesso sono un po' di puntate che facciamo un po' un quadro su quartieri proletari, quartieri dove vivono i poveri, quartieri, insomma, dove noi stessi viviamo e affrontiamo la nostra quotidianità. questo insomma è un bel esempio anche di auto-organizzazione, in barba anche un po' a tutto il discorso sul cittadinismo attivo che appunto abbiamo visto soprattutto nelle città di Roma e di Torino si sta sviluppando un pochino, come, e invece questa è un po' la dimostrazione che un quartiere riesce anche ad organizzarsi e anche a gestire in maniera con i modi e i mezzi che si ritengono opportuni e che sono poi anche efficaci, insomma che riesce ad auto-organizzarsi e autogestirsi in maniera totale. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi continuiamo il discorso insieme al compagno. Eccoci qui su Radio Onda Rossa 87.9, inizio fulminante di questa seconda parte dell'intervista. Prima abbiamo parlato un po' della trasformazione del quartiere di Exarchia, quartiere che a differenza di altri per la presenza organizzata dei compagni e per la presenza cosciente della popolazione non si assoggetta così facilmente, anzi abbiamo visto come è in grado di rispondere a degli attacchi di criminalizzazione all'utilizzo della droga proprio per spaccare il tessuto sociale. E adesso magari nella seconda parte di questa discussione affrontiamo un po' più in generale le questioni che riguardano la Grecia. Partiamo proprio dalla visita del presidente uscente degli Stati Uniti, Obama, che proprio nei giorni scorsi si è presentato a Atene con la insomma, solita calorosa accoglienza, fatta di scontri di piazza e quant'altro, che contraddistingue l'arrivo dei rappresentanti Yankees, insomma, degli americani. E partendo insomma un po' da questa battuta sull'arrivo di Obama, invece vorremmo chiedere un po' qual è la situazione rispetto al memorandum, quindi al fatto dell'indebitamento del paese, come si sta rispondendo, come si sta evolvendo la situazione economica e sociale del paese ellenico. Ok, iniziamo dicendo che da quanto si è capito e da quanto si è dichiarato pure ufficialmente, comunque Obama come presidente uscente degli Stati Uniti è arrivato diciamo in Grecia, più in generale poi è andato in Germania comunque per assicurare il ruolo degli Stati Uniti nella zona del Mediterraneo, del Medio Oriente eccetera, e prendere pure le assicurazioni di servitù dalla parte del premier Tsipras per quanto riguarda proprio l'uso del territorio greco per tutti i progetti guerrafondai della NATO, come si sta facendo fino adesso e come probabilmente e purtroppo succederà pure al prossimo futuro. Poi, entrando proprio sul merito della questione, diciamo più la questione greca, come possiamo dire per quanto riguarda la questione economica, questa visita si può pure ritenere come un regalo da parte di Obama, un regalo comunicativo a livello proprio di facciata al governo di Syriza, al premier Tsipras, nel senso che questa visita è stata spacciata dai media istituzionali, da tutto il racconto che si faceva da parte del governo, come un forte segnale per quel che riguarda il debito pubblico della Grecia, che nel senso che gli Stati Uniti come parte forte del Fondo Monetario Internazionale cerca i modi per far alleggerire magari il debito che oramai ogni anno diventa sempre più grande, mentre i memorandum per tutti gli anni passati sono stati messi in atto per far diminuire il debito, e guarda caso il debito invece di diminuirsi viene aumentato. Comunque tutto il discorso è di facciata, nel senso che dopo il terzo memorandum firmato proprio dal governo di Syriza, là viene proprio previsto che tutto il discorso per un alleggerimento del debito pubblico della Grecia, alleggerimento nel senso non una sua diminuzione vera e propria, un alleggerimento nel senso della diminuzione dei tassi di interesse oppure del periodo nel quale questo sarà pagato. E tutta questa questione è prevista proprio dal memorandum, dall'ultimo memorandum, che sarà aperta e discussa dai debitori, ovvero dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea e da tutti questi sacali usurai del mondo intero dopo il 2018. E quindi possiamo dire che a livello comunicativo, a livello di propaganda, tutto quello che si è detto e si era raccontato da parte di Obama, avendo accanto Tsipras, era una visita di facciata giusto per poter spacciare qualcosa alla popolazione greca, che veramente sta vivendo sempre di più le conseguenze di una crisi capitalista che non è stata causata dai lavoratori, dalle classi deboli, diciamo dalle classi popolari, però da loro viene pagata ogni giorno sempre di più. Sì, no, una cosa forse così, una curiosità che ti vorrei chiedere, ovviamente, vabbè, se ti va, da un punto di vista antagonista, che giudizio c'è sul governo Tsipras, cioè rispetto alle promesse che aveva fatto, di un governo che si era posto, ovviamente poi molte cose le sappiamo pure noi, ma che si era posto in qualche maniera come vicino a certi ambienti radicali, disposto al cambiamento. Vabbè, abbiamo visto subito poi di che pasta era fatto, ma poi adesso con un lungo periodo di osservazione, quali sono poi i risultati che si possono vedere? Sì, quello che si può dire con una certa certezza è che, visto il tempo passato, oramai è un tempo che può qualcuno arrivare in alcune conclusioni e capire un po' cosa rimarrà da questo governo di sinistra, tra virgolette. Possiamo dire che, a parte, lasciando a parte pure tutte le questioni economiche, tutte le false promesse, tutte le grandi dichiarazioni fatte, ma anche e soprattutto il mondo da truffatore con il quale hanno gestito tutta la storia del referendum, si può dire che, lasciando pure in parte tutta la questione economica, quello che si vede è che neanche, diciamo, a livello di diritti civili, sociali, di libertà, penso per esempio tutti i discorsi che avevano fatto e poi preso e poi smentite proprio per quanto riguarda il ruolo della Chiesa Ortodossa, per quanto riguarda i diritti degli omosessuali, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni della vita nelle galere greche, comunque a qualunque spazio, diciamo, a qualunque livello della vita sociale e politica, quello che si può dire con una certa certezza è che Syriza non ha solo non è che non ha mantenuto le sue promesse per quanto riguarda il cambiamento a livello economico, ma ha smentito pure tutte le promesse che magari pure una certa popolazione, quello che si può chiamare il popolo di sinistra greca, aveva veramente pensato che si poteva fare dei cambiamenti. A tutti questi campi che ho menzionato prima, ma quello che si è visto è che, una volta arrivato al potere, e per poter rimanere al potere, comunque si sono trovati a essere veramente condizionati con molto piacere, da quello che si vede, essere assoggettati dal capitale greco, dalla chiesa greca, dai giudici, dalla magistratura, comunque per poter rimanere al potere non hanno nessun problema di continuare una politica a tutti i livelli di un certo tipo, quella che era già quello che era già presente. Non è che hanno cambiato, diciamo, qualcosa su altre questioni che magari non hanno la scusa, che non hanno pure il potere di farlo, per sì. Esempio per quanto riguarda i memorandum e la questione economica, eccetera. Una domanda che ci poniamo è: il fallimento di questa sinistra al potere rispetto anche alle aspettative della popolazione, che ovviamente li ha votati per un preciso mandato di critica all'establishment delle banche, del grande capitale, e quindi il grande vuoto anche di disillusione che porta poi il fallimento di questa prospettiva, che scenari apre secondo te per i prossimi mesi, per i prossimi anni in Grecia? Iniziando parlando proprio sul pratico, a livello quotidiano, quello che si vede è che comunque tutte le mobilitazioni, tutte le manifestazioni, tutti i campi, diciamo, tutte le fronti delle lotte che si danno, si trovano a essere praticate e partecipate da meno gente, e questo sicuramente è frutto pure di la fine delle illusioni spacciate da parte di questo governo per molta gente, per molti poveri, per molti operai, per molti comunque con gente che comunque partecipa alle elezioni. E possiamo dire che Syriza, il primo servizio che ha dato al sistema capitalistico, al sistema, allo Stato greco e ai suoi, all'Unione Europea, eccetera, e che ha trovato il mondo per svuotare le strade, per fare tornare una normalità della miseria e della diciamo della disfatta, che però per essere pure per non generalizzare non significa che non ci sono ancora fronti e campi di lotta, che comunque la gente si mobilita e cerca di migliorare anche il minimo che può migliorare in una situazione come quella che viviamo in Grecia. Poi, parlando per quello che si prevede, da quello che si capisce, e che come magari dicevano pure alcuni più vecchi compagni, che il servizio migliore che hanno potuto dare questi socialdemocratici di Tsipras è che hanno fatto diventare pure la parola di sinistra una parola uguale con quello, diciamo, che significa il sistema politico, classe politica, per la popolazione. Per il futuro, quello che si può prevedere con una certa certezza è che a un certo momento, al massimo fino al 2019, Tsipras se ne andrà dal palazzo del potere, rimarrà nella storia per quello che può chiunque immaginare, e il quadro politico istituzionale che si prevede non è, diciamo, uno dei migliori che può qualcuno immaginare. In qualunque modo questo succederà, oppure con un governo di tecnico, oppure con un governo di grande coalizione tra Syriza e la destra, oppure con un governo vero e proprio di destra con alcuni altri alleati più di partiti minori, centro, eccetera. Comunque, a livello istituzionale, i giorni che stanno per arrivare non possono essere comunque giorni migliori. Giorni migliori possono essere solo quando tutta questa ondata, che ha durato per molti anni in Grecia, ondata di lotte, di rivolte, di azione diretta e di lotte proprio legate con i problemi dei quartieri, nei posti di lavoro, riprenderà. E per poter riprendere fiato questa onda, sicuramente questo governo deve cadere dalla piazza e non dai palazzi. Bene, mi sembra, insomma, un bel messaggio anche molto chiaro rispetto alla situazione, rispetto a questo governo, insomma, che, come poi spesso succede in Italia, viene sempre salutato con grandi strizzate d'occhio e con grande favore. Insomma, questo mi sembra un messaggio anche abbastanza chiaro e concreto su qual è la situazione in Grecia adesso e su questa sinistra un po' che... queste sinistre che in Europa, insomma, non fanno altro che aumentare, diciamo, questo progetto di rassegnazione popolare e che, insomma, danno un contributo fondamentale a quella che è la pacificazione sociale, cosa a cui noi, insomma, ci opponiamo sempre con tutte le nostre forze. Adesso noi ci riprendiamo un'altra pausa musicale e poi andiamo avanti un po' con questa discussione, magari entriamo anche nello specifico. Prima ci accennavi che, insomma, comunque in Grecia delle cose continuano a muoversi e continuano ad andare avanti, magari proviamo a, insomma, a parlare un pochino più di questo. Una breve pausa e poi torniamo in diretta su Silenzio Assordante. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come inbound. Come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery, this is falling sand now. For you know the time is nigh. When I must remove your wings, and you must try to fly. Come sail your Allora torniamo in diretta su Radio Onda Rossa, sono quasi le 5, ringraziamo tutti i commenti che stiamo arrivando alla selezione musicale di oggi, centinaia di migliaia di commenti su questa grande selezione musicale di oggi, molto, come dire, è piaciuta molto dai commenti che arrivano, commenti di gente fomentata, gente che balla a letto con le coperte che si sta proprio deprimendo al massimo, però questo, insomma, è il nostro obiettivo, è giusto, sì, ogni tanto ci concediamo questi spazi così di piccola depressione del venerdì pomeriggio, proprio per non incitare le folle, poi sai, venerdì sera escono e fanno un macello, non va bene. Va bene, detto questo, noi vi ricordiamo il numero della radio dove potete contattarci quando volete, 06 49 17 50. Scusate, ripeto, 06 49 17 50, questo è il numero della radio e dove potete chiamarci per qualsiasi cosa, soprattutto per chiedere consigli musicali al nostro grande DJ. Ma detto questo, dai, continuiamo, ritroviamo un po' di serietà, continuiamo con la chiacchierata che stiamo facendo. Vai, ti cedo la parola. No, niente, volevamo fare un po' un riepilogo della chiacchierata. Stiamo facendo con un compagno greco, siamo partiti da una situazione specifica, cioè quella del quartiere di Exarchia, quindi di come si sta trasformando, invece di quale resistenza il tentativo di criminalizzare, di distruggere il tessuto sociale ha trovato da parte appunto dei residenti e dei molti compagni, dei molti gruppi organizzati che sono presenti proprio nel quartiere. Poi siamo passati un po' alla considerazione invece sul memorandum, su come si sta vivendo la situazione della crisi economica che è ancora ben presente in Grecia, quella del debito che appunto l'abbiamo sentito, lo Stato è costretto, la gente poi è costretta, sarà costretta a pagare da qui ancora per molti anni. E poi siamo arrivati un po' sulla situazione della sinistra al governo e quindi di come è stata poi giudicata poi questa esperienza di governo, degli scenari che si aprono. E quindi continueremo un po' a parlare, a partire un po' da riprendere il filo della discussione, appunto, che su questo stavamo intrattenendo. Sì, ecco, insomma, io ti stimolerei un pochino, visto che hai concluso un po' sul fatto, un po' come ci ricordava, insomma, come hai ricordato tu adesso, che esatto, il nostro DJ preferito, su quello che è successo dopo questa ondata elettorale con il governo di sinistra eccetera, però adesso magari parliamo un pochino di quello che si sta muovendo invece nelle situazioni di lotta che comunque insomma ci sono e continuano ad esistere in Grecia e ad Atene. Ok, parlato proprio giusto pure a livello per informare per quello che succede attualmente, si possono menzionare varie lotte. Per esempio mi vengono proprio in mente ultimamente le mobilitazioni fatte dai lavoratori nell'ente, diciamo, dell'acqua, no? I lavoratori che cercano tramite loro mobilitazioni di fermare i progetti per la privatizzazione dell'acqua. Un fronte che, come possiamo capire tutti, riguarda tutti noi da vicino e in primo luogo gli stessi lavoratori. Un'altra diciamo interessante lotta è quella che danno ultimamente vari sindacati di pensionati, cercando di far fronte contro i continui diminuzioni delle loro pensioni. Su questo dobbiamo pure sottolineare che un governo di sinistra così progressista e così vicino ai problemi della gente non ha osato di mandare l'accelere contro una mobilitazione di pensionati. Questo lo dico giusto per far capire pure a quale livello di come si può dire, comunque a quale livello può arrivare qualcuno quando si trova al potere, certo. E mentre prima magari poteva dire tutto e promettere tutto su tutti per arrivare in questa poltrona. E queste due lotte sono quelle che mi vengono proprio in mente dal livello, diciamo, di lotte proprio sociali e dal mondo del lavoro pure. E un'altra importante lotta che va avanti per vari mesi da sindacati di base, da gruppi di compagni, è contro l'apertura dei negozi le domeniche. E una lotta che dura ormai da molti mesi, anzi da anni, perché ormai sono più di un anno che ogni domenica che si cercano di aprire i negozi al centro di Atene, ma non solo al centro, a tutti i quartieri, a tutte le città, vengono organizzate mobilitazioni, blocchi che molte volte sono finiti pure, sono trovati compagni a scontrarsi con la polizia. Cercando di non far passare un'altra legge che abbassa ulteriormente la qualità della vita dei lavoratori e di farci tornare a un secolo fa, in pratica, quando la gente lavorava 7 giorni su 7 senza nessun orario e quanto i padroni avevano la voglia di farti lavorare lo facevano. E poi un fronte proprio molto importante che durante gli ultimi mesi si è ripreso in una maniera assai decisa è quello della lotta contro i fascisti e in particolare contro i nazisti dell'Alba Dorata, che dobbiamo ricordarci che è il terzo partito al Parlamento greco, e il quali, tramite pure tutto questo discorso che abbiamo fatto pure prima, cosa significa un governo di sinistra a praticare tutte queste politiche antisociali, antipopolari, riempiendo così magari la propaganda per i nazi come di Alba Dorata, i quali infatti, anche se si trovano sotto processo per tutta la loro attività, a un processo al quale finora quello che si sembra finirà trovando tutti questi personaggi infami ad essere ripuliti dalla giustizia borghese greca, e quindi durante gli ultimi mesi cercano in vari modi di ripresentarsi nelle strade, di riaprire diciamo la loro visibilità nei quartieri e nel centro di Atene, e di far diventare di nuovo la loro faccia una faccia pulita e non una faccia di criminali come quella che hanno visto tutti dopo l'assassinio del compagno Fissas, dopo tutti gli attacchi contro gli immigrati eccetera. Comunque, da quello che si vede finora, sia i quartieri sia a livello al centro di Atene, che quelle strade che mai hanno avuto, nelle strade dalle quali sono stati spazzati via dall'antifascismo militante, continueranno ad appartenere al movimento, ai compagni, e non a questi servi del capitale dello Stato greco. Bene, bene. Questo ci interessa molto, soprattutto perché quello che dicevi all'inizio rispetto, insomma, alle proteste che ruotano intorno al mondo del lavoro è una questione molto importante, perché abbiamo visto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno direi, un po' in tutta Europa riprendere un po' un discorso. Abbiamo visto in Francia quello che è successo, insomma, tutte le manifestazioni, il conflitto che c'è stato rispetto alla loi travail, alla legge contro, insomma, la legge sul lavoro, e quello che è successo poi, insomma, quello che si sta provando anche un pochino a mettere in piedi qui, come ne abbiamo parlato tanto in questa trasmissione, rispetto a quello che succede nel Foggiano e nel sud Italia, ma non solo, con i braccianti e con i lavoratori della logistica, insomma, sarebbe il caso proprio di riprendere in maniera un po' più concreta questo discorso, che perché rispetto al mondo del lavoro, insomma, è uno degli ambiti in cui compagni e compagne hanno subito più attacchi e dove l'arretramento proprio sociale è abbastanza evidente, quindi insomma un discorso che andrebbe ripreso in maniera determinata. E non per ultimo, diciamo, tutta la questione che riguarda i fascisti e i nazisti. In Grecia c'è Alba Dorata, qui ci abbiamo, insomma, anche noi le nostre belle organizzazioni che, soprattutto qui a Roma, Casa Pound in primis, insomma, stanno facendo un lavoro molto diffuso e capillare sui territori, non solo, ricordiamo, insomma, così quello che è successo a Magliana, che non solo nella manifestazione di sabato 5 novembre, ma quello che è successo nell'ultimo periodo, che ha portato poi alla chiusura del speriamo momentanea, sì, del Macchia Rossa, e quello che è successo anche ad Ercolano, quindi un attacco dei fascisti un po' a 360 gradi, che comunque in queste situazioni di crisi sociale, insomma, fanno del facile populismo, e per loro è molto facile agganciarsi a queste tematiche. Quindi non so se vogliamo prenderci un'altra piccola pausa, così poi andiamo. Se per questa parte abbiamo concluso, poi andremo a parlare della questione dei profughi, degli accordi con la Turchia, quindi magari ci riposiamo qualche minuto con un po' di musica e poi andiamo su questi altri temi. Va bene. Ok, prima di chiudere questa tematica, diciamo, è importante da dire che entro Natale, comunque entro la fine dell'anno, è prevista la votazione dal governo di Syriza di ulteriori misure contro il mondo del lavoro, nel senso che sono già condizionati dalle firme che hanno messo nei memorandum di passare ulteriori leggi contro, che prevedono la diminuzione del già misero stipendio di base di 500 euro al mese, di passare leggi cosiddette leggi di limitazione del sindacalismo, in pratica leggi che cercheranno, tramite le quali cercheranno di far diventare sempre più difficile la proclamazione di uno sciopero, e una serie di altre misure che puntano proprio, come raccontano, di far diventare il lavoro sempre meno caro in Grecia per i padroni, per così creare, diciamo, il clima favorevole per gli investimenti che stanno andando a aspettare per far riprendere l'economia, eccetera eccetera, tutti questi discorsi che sentiamo come ritornelli. Giusto per chiuderlo, è importante da sottolineare che già contro queste leggi che stanno per arrivare sono già programmati due scioperi generali, uno al 24 novembre e uno a 8 dicembre, se non sbaglio, proprio contro queste misure che stanno per arrivare entro le prossime settimane. Bene, quindi hai fatto bene a ricordarci questi appuntamenti che sono importanti. Allora prendiamocela questa pausetta e a tra poco su Silenzio Assordante. That lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door, they measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. And poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you are only just beginning. The answer to all your fears, it's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Lost amongst our winning. We'll be right back. prove. They've hosed you down, you're good as new. And they're lining up to inspect you. White as a ghost, he's found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you. Allora, sono le 17:17, un bell'orario. Torniamo in diretta su Silenzi Assordanti, quindi dai, continuiamo, andiamo in conclusione con la chiacchierata, facciamo, vai. Sì, abbiamo maestro. Parlato di, prego, abbiamo parlato di molti temi, adesso cercavamo di entrare un po' più in merito a quello che poi è di solito gli argomenti che affrontiamo all'interno del programma, quindi che si occupa di migranti, di immigrazioni. Di questi problemi e affrontare la questione dei profughi. Quindi sappiamo che la Grecia è un paese confinante con la Turchia, quindi è una meta obbligatoria di passaggio sulle rotte di profughi, ad esempio quelle provenienti dalla Siria, ma anche dall'Afghanistan. È un paese di transito, è un paese che è stato militarizzato, che ha visto la presenza di Frontex, che ha visto accordi con l'Unione Europea, che ha visto respingimento di migranti, quindi strettamente interessato alla questione, e va anche detto che è un paese confinante con una zona di guerra, perché anche se non ufficialmente noi consideriamo la Turchia un paese in guerra, visto insomma l'impegno militare che è profondo sia in Siria ma anche proprio nei territori turchi del nord-est, come abbiamo più volte sottolineato in questo programma. Quindi adesso vorremmo un po' occuparci proprio della situazione dei profughi in Turchia, in particolare rispetto proprio alla situazione turca. Sì, iniziamo dicendo che l'accordo vergognoso tra Unione Europea e Turchia, un accordo già problematico sin dall'inizio, visto che tramite questo accordo, firmato pure dal governo greco, la Turchia viene riconosciuta come un paese sicuro, come un paese al quale profughi ed immigranti possono essere rispediti. possiamo dire che questo accordo è già una lettera morta, già da diversi mesi, già dall'estate, dopo diciamo il fallito colpo di Stato in Turchia, il cambiamento delle relazioni tra il regime di Erdogan e l'Unione Europea, ma anche tramite le politiche apertamente razziste, propagande praticate da diversi governi dell'Europa centrale. Questo accordo in pratica è una lettera morta. A livello proprio di cifre, da questo accordo veniva previsto che 60.000, quasi 60.000 profughi sarebbero trasferiti dalla Grecia in altri paesi dell'Unione Europea. Fino adesso sono meno di 5.000 quei profughi che hanno potuto continuare il loro viaggio dalla Grecia verso altri paesi dell'Unione Europea. E proprio poi una cosa da dire che è importante è che passati i primi mesi che di questa crisi iniziata tramite la guerra in Siria e le migliaia delle persone arrivate in Grecia soprattutto dalla Turchia, passato il primo tempo che a livello mediatico c'era un clima diciamo di filantropia e di pseudo antirazzismo, più passa il tempo più lo Stato fa vedere veramente come intende, come gestisce queste popolazioni tramite centri di accoglienza dove vivono migliaia di persone in condizioni disumane, ma anche a livello sociale è da sottolineare che durante gli ultimi mesi a diverse località, soprattutto nelle isole come a Samos o come a Lesvos, fascisti e razzisti che si spacciano come genitori o come abitanti cercano di mettere, diciamo, di bloccare una vita migliore per queste persone, soprattutto tramite la tematica hanno cercato di organizzare diverse mobilitazioni per non dare il permesso ai ragazzi profughi, ai figli e alle figlie dei profughi di avere una elementare istruzione nelle scuole greche. Questo è stato diciamo un campo di battaglia che fino adesso è in atto, che almeno le mobilitazioni di compagni ma anche di popolazione antirazzista ha potuto bloccare questo, diciamo, questo atto razzista per eccellenza, nel senso che apertamente cercavano di non permettere a vittime di guerra, a ragazzi e a ragazze di 8, di 10 anni di avere la minima istruzione. Possiamo pure parlare, che è importante secondo me, per la solidarietà dal basso, quella non istituzionale, ad istituzionale, che si è data e si continua a dare da vari gruppi e organizzazioni, tramite che aiutano e si trovano al fianco con i profughi, soprattutto per poter soddisfare i minimi bisogni come la casa, come il cibo e come sono i vestiti che sono necessari, eccetera. È da dire che attualmente ad Atene, al centro, a quartiere di Exarchia, sono attive 4 occupazioni abitative di profughi. E per quanto riguarda la politica istituzionale contro queste strutture, è da sottolineare che l'estate scorso il governo greco, con l'appoggio della Chiesa Ortodossa, ha attaccato e ha sgomberato tre edifici, tre occupazioni a Salonicco. mentre i soliti servi del potere dei fascisti l'estate scorso hanno cercato, hanno fatto un attacco incendiario parecchio serio, nel senso che poteva lasciare dietro morti e feriti, contro una occupazione di immigrati al centro di Atene ad Exarchia, nella piena notte, in un momento che dentro all'edificio dormivano centinaia di profughi, di famiglie di profughi con, pure con bambini. E questo per far capire che la politica, pure quella istituzionale, pure quella parastatale, fascista, vanno a pari passo all'attacco contro i profughi, i migrati e i solidali che danno la lotta insieme con questa popolazione. Bene, senti una cosa, come non so se voi avete avuto modo di conoscere proprio queste esperienze direttamente, quindi occupazioni che sono state fatte proprio nel centro di Atene per dare assistenza, diciamo autogestita, quindi auto-organizzata, informale, a persone in transito, e sapere come si sono organizzate queste occupazioni, che è una cosa interessante poi da sapere, perché poi è una cosa riproducibile, penso, ad ogni latitudine, visto che poi queste situazioni di transito esistono ovunque. Che modelli organizzativi ci sono stati, se è stata una cosa, diciamo, fatta da, quindi da residenti, da compagni, in cui i transitanti sono stati semplicemente degli ospiti o comunque insomma non hanno partecipato direttamente, oppure c'è stata anche un'auto-organizzazione in cui anche le persone in transito hanno contribuito poi a portare avanti una lotta, a portare avanti la gestione di uno spazio. Ok, questa è una questione parecchio importante. Perché? Perché diciamo che io sappia dalle occupazioni, almeno che è una esperienza diretta, gli edifici occupati sono stati occupati dall'iniziativa di vari gruppi politici, da vari gruppi di compagni, in collaborazione con profughi ed immigranti. Per quanto riguarda il modo di organizzazione della vita in questi spazi occupati, si è basata dall'inizio, sin dall'inizio, e continua a basarsi sull'auto-organizzazione, sull'azione, diciamo, condivisa sia dai profughi e gli immigrati, sia dai compagni e dalla gente solidale che appoggia ogni struttura. Quello che riguarda lo stato degli stessi profughi e il loro coinvolgimento nella vita degli edifici e degli spazi occupati, è da sottolineare che più passa il tempo e più la maggior parte di questa gente, di questi uomini e donne, capiscono che ormai la loro vita, il loro stato in Grecia non è un stato di transito, ed è più che probabile che loro rimarranno in Grecia, anche intrappolate, perché la maggior parte di questa, la stragrande maggioranza di questa gente cerca di andare via dalla Grecia. Però da quello che capiscono oramai pure loro stessi, è che da come sono state, com'è la situazione, è più che probabile che rimarranno in Grecia, ad Atene. Appena hanno questa coscienza, capiscono pure che l'occupazione alla quale trovano, vivono, e le strutture dalle quali trovano appoggio sono strutture che li riguardano direttamente e per un periodo lungo, non per un periodo, diciamo, momentaneo. Non è un momento di transito dal quale continueranno il loro viaggio, però è più che probabile che si troveranno a vivere a queste strutture per molto tempo. E da questa presa di coscienza cambia pure il loro, diciamo, modo di partecipare, di agire, di cercare pure loro stessi essere protagonisti delle iniziative, delle pratiche venute che vengono fatte, e non solo, diciamo, non lo vedono più come un posto di dormire, trovare da mangiare e poi continuare un viaggio. Senti una cosa, tu parlavi di attacchi che hanno ricevuto questi posti. Noi abbiamo documentato in questi mesi una politica sistematica, però istituzionale, di attacco e chiusura rispetto a qualsiasi sorta di accampamento informale che viene fatto dai transitanti. Abbiamo visto Ventimiglia, Calema, la stessa Grecia. Non è data la possibilità a chi transita di auto-organizzarsi, costruirsi una situazione durante questo percorso, ma deve essere disperso all'interno delle strutture istituzionali, proprio per non creare delle forze aggregative in grado poi di lottare e di portare avanti delle istanze. Ecco, non so, volevo sapere se anche in Grecia poi c'è stato questo, rispetto a queste occupazioni che sono un fenomeno molto interessante, che c'è stato ad Atene ma anche in altre città, ad esempio anche a Parigi, poi ci sono stati episodi simili di occupazioni per i profughi, sapere se c'è stata una criminalizzazione istituzionale, un progetto di chiusura e di normalizzazione proprio da parte del governo. Ok, per quanto riguarda gli accampamenti, diciamo le strutture che hanno costruito loro stessi profughi cercando di continuare il loro viaggio, l'esempio per eccellenza della Grecia è quello che viene da Idomeni, dai confini al nord del paese, dove in pratica un accampamento da dove cercavano migliaia di persone di scappare per continuare il loro viaggio verso l'Europa è stato sgomberato l'estate scorso. Poi per quanto riguarda, diciamo, la gestione della popolazione migrante e profuga, quello che viene offerto tra virgolette dallo Stato greco e in pratica la politica repressiva della polizia greca e della Frontex sono i campi chiusi, quelli, diciamo, i corrispondenti CIE che sono moltiplicati durante gli ultimi mesi in tutta la Grecia, soprattutto nelle isole confinanti con la Turchia, comunque strutture che possono essere caratterizzate come galere vere e proprie. Poi una piccola popolazione, una piccola parte dei profughi, soprattutto la popolazione siriana, che viene riconosciuta dall'ONU, dall'Unione Europea, dallo Stato greco come avendo il diritto dello Stato del profugo, e questo è un altro discorso se importante, il modo con il quale il potere cerca di dividere gli stessi profughi. Comunque una parte di popolazione, diciamo soprattutto siriana, si trova ad avere la possibilità, per esempio, di avere un appartamento tramite varie ONG che collaborano in questo progetto, e di avere comunque un tenore di vita assai diverso, per esempio, dalla popolazione che proviene da Afghanistan oppure da Iraq, che secondo l'Unione Europea e secondo dall'ONU non sono stati in stato di guerra, quindi queste popolazioni non vengono neanche riconosciute come profughi. Bene, senti, ti abbiamo veramente sfruttato al massimo questa occasione. E poi tra l'altro, prego. Lo dico, scusa, ci ha fatto fare un po' una brutta figura perché parli italiano molto meglio di noi. Però noi parliamo greco meglio di lui, adesso non lo facciamo vedere perché sì. Non è il caso, insomma, però ecco, vabbè, grazie comunque. Grazie a voi e un saluto a tutti e a tutte. Grazie, no, è stato molto interessante, soprattutto insomma ci ha consentito un po' di approfondire un pochino, a parte tutta la questione sulla Grecia, ma anche un po' di continuare il discorso su che abbiamo iniziato nelle scorse trasmissioni e che continueremo anche nelle prossime, sulle quelle che abbiamo chiamato le trasformazioni delle città, per non usare questo termine molto in voga adesso, che è quello della gentrificazione, ma anziché insomma usare slogan, insomma, e soliti discorsi che poi non portano a niente, cerchiamo un po' invece di fare degli approfondimenti molto concreti e con anche esperienze e testimonianze dirette da chi poi le situazioni se le vive realmente. Quindi non so che facciamo, ditemi voi. Intanto lasciamo, se vuole concludere, lasciamo la parola. Giusto per concludere, mando un saluto a tutti e a tutte che ci sentono, e spero che in prossimi tempi avremo la possibilità di risentirci. Sicuramente.